Io conosco molti uomini che mi hanno detto sinceramente di essere dei vigliacchi, che soffrono di questa malattia che si chiama paura. Devo pensare che questa è la forma dell'eroismo moderno? Soldati! Qui c'è un vigliacco che vorrebbe saltare il turno. Chi di voi vuole prendere il posto del vigliacco? Chi di voi vuole prendere il posto del vigliacco? Allora, se non vado io... Sì, vado io. Sì, se non vado io non va nessuno. Allora, vado io. Lasciami! Lasciami, per Dio, lasciami andare. E gli danno anche le medaglie. Portano anche i segni del valore. E via questi segni, se li portano i vili. Un silenzio attonito, greve, ovattato. Nessuno si muove. Nessuno sa cosa fare, me compreso. Nel silenzio una voce annuncia l'ispezione del maggiore. Allora afferro le spalle dell'eroe, lo scuoto forte, gli domando che dobbiamo fare. I suoi occhi lampeggiano, si ritrae dalla mia stretta, mi dice: ecco, così facciamo. Corre lungo il fosso fino al cunicolo. Si china, afferra il moschetto, lo punta sotto al mento e spara. Il cervello schizza contro i sacchi del parapetto. Non è vero che l'istinto di conservazione sia una legge assoluta della vita. Ci sono dei momenti in cui la vita pesa più dell'attesa della morte. Devo dormire. Devo perdere coscienza di me. Devo dormire. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 23esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 29 giugno all'8 luglio 2023. Per chi non lo conoscesse, cos'è questo festival? Attraversamenti Multipli è un festival dedicato alle arti performative, un festival multidisciplinare, quindi intreccio a spettacoli, performance e site specifiche di danza, teatro, musica. E la novità di questa edizione è che il festival si confronta per la prima volta con la natura urbana, nel senso che si svolge completamente all'interno del parco di Torre del Fiscale, fa parte del parco archeologico dell'Asia Antica, e l'altro anno in realtà avevamo fatto un piccolo prologo di due giorni di relazione tra il festival e uno spazio verde metropolitano, e da lì è nata l'idea, anche la voglia, insomma, di creare questa, una sperimentazione nuova, e quindi di abitare con il festival per 7 giorni un parco urbano. E quindi è la prima volta che, diciamo, da quello che erano i pilastri del festival, che si è sempre confrontato con i paesaggi urbani, passiamo a quella che è la natura urbana. Come si caratterizza questa edizione? Ogni anno abbiamo uno slogan, una parola, un club che ci accompagna, e quest'anno è fragile, ed è una parola che un po' la decidiamo su vari livelli, sia sul ragionamento più ampio, più globale rispetto alla dimensione che ci troviamo a vivere, di un pianeta sempre più fragile, sempre più colpito da emergenze climatiche, emergenze umanitarie, e contemporaneamente fragile anche rispetto a quello che è l'universo delle arti performative, che comunque continua a vivere una precarietà senza fine, e anche quello che ci viviamo come persone, esseri umani, soprattutto dopo una dimensione come quella che è stata della pandemia, di fragilità che ci ha raccontato, che poi appunto siamo molto fragili e siamo contemporaneamente allo stesso tempo anche molto interconnessi. Però la parola fragile la cerchiamo di destinare come un elemento anche vitale, quindi un po' una chiave di lettura del reale, quasi come una postura decentrata, possiamo definire, da cui poter ripartire per creare anche delle traiettorie alte differenti, quindi anche con un elemento assolutamente prepositivo. Questa è la parola che ci accompagna in questo 23esima edizione, e anche all'interno appunto della scelta di prolungamento tra le relazioni, tra le performance e i corpi performativi e gli spazi verdi, in un'ottica anche green e sostenibile, di un orgiamento sulla sostenibilità che attraversa soprattutto le forme attraverso cui vengono presentate le performance, e non tanto nei contenuti, anche se alcuni spettacoli che andiamo a presentare anche parlano proprio di questi project direttamente proprio del cambiamento climatico, però è soprattutto le forme, nel senso che chi conosce il pezzo abita i luoghi e si inserisce in dialogo con i luoghi, lavoriamo da anni su allestimento, questa è la parola che va anche molto di moda, ma attraverso la pratica da molti anni, quanto appunto il pubblico è seduto su delle storie, comodamente su delle storie del prati del parco artificiale, e diciamo, ci sono stati tanto quant'altro, sono sugli spazi esistenti, e quindi anche un lavoro chiaramente che crea per forza anche uno spostamento agli stessi artisti e le compagnie che ospitiamo, che sono molte. Quest'anno abbiamo 21 compagnie, tra cui una bella presenza anche di compagnie straniere, dalla Spagna e dalla Francia, a cui chiaramente ognuno porta, alcuni ci sono molte prime nazionali, alcune ci sono alcune creazioni originali create proprio per il festival, ma anche gli spettacoli preesistenti, chiaramente dovendosi confrontare con uno spazio come il parco artificiale, che ha degli elementi molto forti di archeologia, ma è incugnato in una zona densamente popolata come il Tuscolano, e con la ferrovia che gli passa accanto, gli aerei che scendono verso Ciappino, quindi veramente un po' il mare verde della metropoli, però assolutamente all'interno della città. Ed è anche interessante questo sincretismo tra archeologia e contemporaneo, e quindi diciamo tutte le compagnie hanno dovuto un po' relazionarsi in questo spazio e anche trasformare questi spettacoli. Iniziamo il 29 giugno con gli eventi artistici, con una giornata molto densa. Per chi è interessato, io invito ad andare sul sito che è attraversamentimultipli.it, in italiano e in inglese, che trovate tutto il programma definito. Quanti sono gli eventi e quali luoghi? Quest'anno si svolge tutto al Parco di Torre del Fiscale, quindi chiaramente lo abitiamo in più punti, in più spazi. Sono 35 spettacoli e 21 compagnie, e i giorni di eventi sono 7, quindi il 29 e il 30 giugno, il 1, il 5, il 6, il 7 e l'8 luglio. È molto denso il programma. Parlando prima della prima giornata, il 29 giugno, in cui abbiamo per esempio 7 performance, quindi è un po' un flusso continuo che intreccia spettacolo di teatro con performance di danza, con le performance che intrecciano la musica, con i visual, quindi con i video. Quindi diciamo un po', questa è la caratteristica un po' del senso di attraversamenti multipli, la multidisciplinarietà, e la parola attraversamenti multipli già ce lo racconta, quindi attraversamenti tra diversi codici artistici, e diciamo un programma senso di cui siamo molto felici per presentarvi. E all'interno del programma di quest'anno, come un po' di anni, sono presenti dei laboratori che sono gratuiti. Quest'anno ne presentiamo 3: un laboratorio di danza e teatro nei paesaggi urbani, Fare Corpo, insieme condotto da Carlo Massari e Cicci Company; un laboratorio a cui teniamo molto, che è un laboratorio di visione interculturale, che il gruppo che segue il laboratorio va a seguire tutto il testo e a raccontarlo attraverso un blog assolutamente indipendente, quindi uno sguardo multitask che si chiama qui sul festival, e un laboratorio invece che offre la compagnia Zappalà sul linguaggio mobile, il linguaggio di danza della compagnia Zappalà. Questi 3 laboratori, tra l'altro vi segnalo che il laboratorio di visione interculturale, e l'altro elemento che volevo sottolineare è che come sempre il festival è attento alla processualità artistica e cerca di creare delle traiettorie di supporto alla produzione artistica del contemporaneo attraverso delle residenze artistiche. Quindi molti degli artisti presenti arrivano giorni prima, vengono ospitati dal festival per costruire il test specifico proprio per i luoghi e per gli attraversamenti multipli. 23esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, dal titolo Fragile, a Roma dal 29 giugno all'8 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto! Grazie, ciao! Con Tiziano Panici, direttore artistico di dominio pubblico Youth Fest, decima edizione, Viaggio nell'Oltreverso, questo è il titolo. Ben trovato. Ben trovato a te Federico, ben trovati a tutti e a tutte ovviamente. Raccontiamo il progetto Dominio Pubblico per chi non conoscesse. Sono ormai tanti anni che lo racconto a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. È un progetto di formazione, prima di tutto, quindi durante l'anno, ogni nuovo anno, si forma una direzione artistica Under 25 che ha il compito di creare, scegliendo, impegnandosi appunto proprio nello sforzo di ricercare progetti innovativi, multidisciplinari, che in qualche modo raccontino e restituiscano lo sguardo di una nuova generazione. L'impegno è quello di creare uno spazio aperto all'interno del quale artisti e artiste di nuova generazione abbiano la possibilità di esprimersi. E la formula che abbiamo adottato, che ci sembrava la migliore, è che fossero ragazzi e ragazze della stessa generazione a impegnarsi in questa ricerca, ovviamente con un tutoraggio professionale dal punto di vista della direzione artistica, ma in realtà ogni sezione del festival, che copre dal teatro alla danza, alle arti performative e digitali, alle arti visive, al cinema, alla musica, ha un statuto responsabile, e questo ci ha permesso negli anni di costruire una rete, un networking di realtà che hanno contribuito e collaborato a raffinare e a rafforzare la ricerca appunto degli artisti su tutto il territorio nazionale. Quindi nel corso di questi 10 anni il dominio pubblico si è affermato effettivamente come una realtà di forte identità, spesso e volentieri anche internazionale, e quest'anno festeggia e consolida i suoi 10 anni a Teatro India. E ormai 2015 è una delle sedi principali del nostro, dove dal 27 di giugno al 2 luglio si svolgerà appunto la 10ª edizione di questa manifestazione. Oltreverso è il titolo scelto dalla nuova direzione artistica Under 25, è un gruppo di circa 12 ragazzi e ragazze, affiancati fra l'altro in tutte le sezioni anche da quello che è lo staff Under 25 che si è costituito con le precedenti direzioni. Quindi è proprio un lavoro di staffetta e di grande sostegno reciproco, e dà spazio e ospitalità ad oltre 100 artisti. Sono quasi 18 gli eventi live, compresi appunto quelli di circo, di danza, teatro e musica. C'è un'intera serie di mostre, di arti visive, di esposizione, e un museo virtuale esplorabile, una rassegna di cinema tutta votata con la scoperta di nuovi autori e nuove autrici. E fra l'altro avremo un'inaugurazione particolare, ma della tuta che ci sta insomma per i 10 anni, è una tuta speciale che verrà elaborata dalla chef Irene Volpi questa occasione, che è una creativa che ha già partecipato alle precedenti edizioni di dominio pubblico. E così molte altre artiste della programmazione torneranno per questa 10ª edizione a raccontare anche la crescita del loro percorso artistico individuale o collettivo. Come saranno strutturate queste 6 giornate? Saranno strutturate con intanto ingressi quasi sempre gratuiti, la maggior parte degli eventi sono fruibili attraverso prenotazione online dalla piattaforma Eventbrite, e invece parte degli spettacoli in sala sono sempre tutti accessibili al prezzo di 5 euro e sono già stabili online sul nostro sito www.dominiopubblicoteatro.it, e ovviamente potete consultare la programmazione intera sia sul sito sia su tutti i nostri canali su Instagram, su Facebook e anche sul sito stesso del Teatro di Roma, a quello di dominio pubblico. E solitamente gli eventi iniziano a partire dalle 18:30 di ogni pomeriggio e andiamo fino alla mezzanotte, quindi ogni giorno appunto troverete un programma ricco che prevede tutti i vari spazi del Teatro India, che è uno spazio molto grande, occupiamo 4 diverse sale dell'edificio più l'arena esterna. Ci sono degli appuntamenti chiaramente che magari possono destare particolare attenzione, come appunto quello del 1 luglio, dove abbiamo tra le guest di eccezione Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam, che accompagnerà 10 giovani poeti sul palco, tra l'altro con l'accompagnamento musicale, artistico e canoro di Giuliana Nia, poetessa romana che insomma ormai è trasversalmente attraversa moltissimi eventi dell'estate cittadina e accompagnati ai piatti da DJ Ice One, così come nelle stesse giornate il regista catalano Roger Bernat presenterà Fruitor Passive, che è un vero e proprio dispositivo che coinvolge direttamente gli spettatori e le spettatrici che saranno presenti in sala a partecipare alla realizzazione dello spettacolo. Ogni sera chiudiamo con la musica dal vivo, iniziamo il 27 in questa giornata speciale del taglio della torta, a conclusione di quella giornata c'è una jazz band fusion che sono i Tritox, musicano e sonorizzano dal vivo Metropolis di Fritz Lang, il capolavoro dell'arte cinematografica, e questo avverrà appunto proprio a conclusione della serata. Quasi ogni giorno ad accompagnarci ci sono tantissime collaborazioni, tra cui Zalib, che crea un corner di dialogo e di presentazioni di libri, anche loro sono presenti a partire già dal 27 nell'arena e hanno diverse guest e curiosità e chicche appunto da presentare all'interno della programmazione. E ogni giorno troverete appunto spettacoli di teatro con autori e autrici più o meno conosciuti, chiaramente puntiamo a rafforzare con quelli che sono stati anche artisti che si sono distinti in passato, ad esempio ci sarà il debutto della Sparanoia di Fetta Rappa e Guerrieri, è un duo direi comico ma comico distruttivo che dallo scorso anno ha invaso tutte le piazze italiane vincendo il premio in box e che torna adesso con la sua nuova produzione il 2 luglio sempre al Teatro India. E poi Tripofobia, che è l'ultimo spettacolo dell'autore e coreografo Pablo Girolami, anche lui ormai presente sulle scene nazionali e internazionali, quindi sono autori molto giovani che però hanno già un loro seguito e un loro richiamo, e ho detto praticamente solo la metà del programma fino adesso, mi fermo qua. Decima edizione di dominio pubblico Youth Fest, viaggio nell'oltreverso a Roma, Teatro India, dal 27 giugno al 2 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tiziano Panici. A presto! Grazie, grazie a voi, grazie mille. Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare la nona edizione del progetto Territori da Cucire. Che cosa ci sta succedendo? Varietà militante in 5 puntate, dal 28 giugno al 26 luglio 2023. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Ce ne parli? E ne parlo molto volentieri. Torniamo nelle piazze di Valsamoggia. Territori da Cucire, che è nato 9 anni fa, ha attraversato diverse stagioni e diverse trasformazioni, tra cui il Covid, gli anni della pandemia, nei quali siamo comunque riusciti a portare avanti questo progetto di teatro di comunità. È pensato per il nostro territorio, siamo noi a immaginarlo, ma lo realizziamo con la collaborazione di moltissimi cittadini che partecipano ai nostri laboratori, e lo spettacolo lo creiamo insieme, pensando a quello che più ci interessa, ci sta a cuore nel momento in cui lo creiamo. E adesso ci stiamo domandando cosa ci sta succedendo. Questa trasformazione, questa mutazione antropologica nella quale ci troviamo, insomma, ci scombussola. Siamo un po' frastornati, abbiamo bisogno di discutere insieme di questo, e noi lo faremo con le armi del teatro, del varietà, cercheremo di far ridere, di avere un'ironia pungente e di far riflettere un po' tutti, non solo gli spettatori, ma anche noi dobbiamo riflettere. Come saranno articolate queste 5 puntate? Come ogni varietà che si rispetti, abbiamo degli appuntamenti fissi con dei contenuti che cambiano. Naturalmente ci sarà una sigla e il nostro nome ispiratore è Bob Dylan con la sua canzone Hard Rain Gonna Fall. Lui l'ha scritta 60 anni fa, nel 63. Quando stava per arrivare una grande pioggia, il mondo stava cambiando a una rapidità e con una forza clamorosa. E noi abbiamo la sensazione che anche adesso sia così, quindi lui ci ha ispirato con questa canzone visionaria, però c'è anche in versione trasformata, perché nella nostra sigla ci saranno le parole di Dylan, ma abbiamo trovato una cover di questa canzone fatta da Brian Ferry, Roxy Music, molto dance, nel 73, molto rock e horror. E devo dire che siamo riusciti a montare una sigla molto divertente, ispirata a un'apocalisse dei balli di gruppo tipo Aldigaldi. Poi ci saranno appuntamenti con dei racconti autobiografici, ci sarà Peck, ci accompagnerà con il suo intramontabile Aspettando Godot, e ci saranno le parole di un poeta carissimo che ci ha da poco lasciato, Giuliano Scabia, col suo teatro vagante, i suoi canti del guardare lontano. Poi ci saranno i nostri contributi, appunto, come dicevo, autobiografici. Ci sarà un gioco intitolato Chi l'ha scritto, ci saranno anche premi in natura, naturalmente, per indovinare assieme frasi di pensatori celebri e meno celebri, e poi, condividendo il cibo, la piazza, il varietà, si trasformerà in assemblea e apriremo il microfono a tutti quelli che vorranno raccontarci che cosa gli sta succedendo nella vita quotidiana. Come funziona il lavoro con le comunità, il rapporto con le comunità? Oramai sono 9 anni che portiamo avanti questa collaborazione. È un rapporto che va come il mare, a onde, che per alcuni anni ci fa incontrare. Per un periodo abbiamo lavorato molto con cittadini di origine straniera, adesso ci troviamo magari in altre condizioni, ce ne sono meno, i temi ci passano, ci attraversano e con i cittadini e con la comunità di Valsamoggia abbiamo un appuntamento attorno al mese di aprile, e quello è l'appuntamento in cui noi lanciamo il progetto e si raccolgono le adesioni di chi vuole fare laboratori fino a luglio e portare lo spettacolo nelle piazze. È un rapporto ricco, sempre più difficile però. Direi che gli anni della pandemia hanno segnato un cambiamento nelle persone, nella voglia, nel desiderio, nella capacità di stare assieme. Adesso è un po' più difficile, mi sembra, e forse il territorio da cucire è necessario per questo. Adesso scappiamo molto dal nostro presente, andiamo in isole lontane o in spiagge vicine e ci allontaniamo un po' dalla vita della comunità, ma forse per questo la sfida ci stimola ancora di più e siamo qui nelle piazze con dei cittadini che come noi condividono questa sfida. Ci dai riferimenti web per saperne di più sul programma? Sul nostro sito è www.teatrodellearriette.it. Comunque si tratta di 5 mercoledì a partire dal 28 giugno e a finire il 26 luglio nelle piazze delle 5 municipalità di Valsamoggia, che sono Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle, Crestellano e Bazzano. Quindi se volete sarete accolti a braccia aperte, l'ingresso è gratuito e venite con delle cose da raccontarci. Nona edizione del progetto Territori da Cucire. Che cosa ci sta succedendo? Varietà militante in 5 puntate dal 28 giugno al 26 luglio 2023 nelle piazze di Valsamoggia, Monteveglio, Savigno, Castelletto, Crespellano e Bazzano. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. A presto! Grazie a te, grazie a tutti. Ciao, a presto! Con il giornalista scrittore Giuseppe Caporale per presentare il suo libro Eco Shock, come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica. Ben trovato. Grazie a voi dell'invito. Di cosa si parla? Di un'emergenza che purtroppo coinvolge proprio l'Italia, che è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo, come spiega il libro, è un hotspot del cambiamento climatico. Qui l'accelerazione del cambiamento climatico è già in atto, qui le medie che tutto il sistema non deve raggiungere sono già state raggiunte, qui già si vedono i primi effetti drammatici di questo cambiamento climatico. Il libro è un grido d'allarme, è un invito al pragmatismo, a uscire dalle logiche contrapposte delle ideologie e a pragmaticamente mettere in sicurezza il territorio, perché non abbiamo più tempo. Come nasce tutto? Il libro nasce da una serie di incontri che ho avuto con alcuni climatologi e dall'approccio di un ex fatalista su questo tema. Quindi da fatalista mi approcciavo al cambiamento climatico con tantissime incertezze, considerandolo un tema al di là da venire, non come un'urgenza. Quando poi mi sono confrontato per motivi di lavoro attraverso una serie di seminari e di incontri con dei climatologi, ho chiesto loro quali erano i dati sul Mediterraneo. Lì è emersa questa notizia gigantesca di questo fenomeno, che ovviamente io non sapevo e mi pare sempre più evidente, nessuno in Italia è ben consapevole del fatto che il Mediterraneo ha questa accelerazione del cambiamento climatico. E quindi questo eccesso di riscaldamento superiore alla media del rischio globale ci porta a un'esposizione. Da quella informazione, da quella paura, da fatalista sono diventato ex fatalista e ho cominciato un viaggio di consapevolezza che poi si riscontra nelle pagine del libro, ed è un viaggio per cercare di capire dove questo cambiamento climatico impatterà, soprattutto incrociando i dati con le informazioni sul rischio idrogeologico dell'ISPRA, dell'ENEA, e ovviamente emerge una mappa dell'Italia con un 90% del territorio a rischio frane e alluvioni, senza pensare poi ovviamente a quello che per esempio vivremo già in questi giorni, ovvero alle ondate di calore che mettono seriamente in difficoltà minori, anziani e le fasce più deboli. Oltre alle piogge impreviste e alla siccità, quali sono gli effetti immediati? Il rischio del territorio, ovvero gli smottamenti del territorio, tutto ciò che provoca questo effetto del cambiamento climatico è qualcosa di olistico, non riguarda solo il suolo, non riguarda solo l'aria, non riguarda solo il cibo, non riguarda solo la pressione del mare, l'innalzamento del mare, è tutto purtroppo, ed è per questo che è un fenomeno difficile da affrontare ed è un problema che ci appare enorme da risolvere, sia nel contesto nazionale che nel contesto internazionale. È chiaro che l'unica soluzione che emerge dagli studi fatti, dalle ricerche, da questa inchiesta di 280 pagine, l'unica soluzione è un approccio pragmatico, ovvero per combattere il cambiamento climatico si interviene con la mitigazione e con l'adattamento. La mitigazione è l'azzeramento delle emissioni, mentre l'adattamento è la messa in sicurezza del territorio. Sull'azzeramento delle emissioni non basta che lo faccia solo l'Italia, ed è forse anche pericoloso che lo faccia solo l'Italia, perché accelererebbe una transizione che altri paesi non fanno e ne risentirebbe tutto il sistema economico. Quello invece di cui c'è una grandissima urgenza è la messa in sicurezza del territorio, perché noi abbiamo colpevolmente consumato tanto territorio in un paese che era originariamente, e ovviamente lo è ancora, molto fragile, quindi questa grande nostra debolezza impatterà su questo enorme pericolo. E questo potrebbe provocare dei danni che oggi non siamo in grado di quantificare. Abbiamo avuto un assaggio con quello che è successo in Emilia-Romagna, ma potrebbe soltanto essere l'inizio. Nel tuo viaggio hai individuato anche esempi virtuosi? Ci sono esempi virtuosi, ad esempio Rimini è una città che ha innalzato di un metro la propria riviera per difendersi dall'innalzamento del mare. Ci sono esempi virtuosi di città che hanno scelto di piantare alberi, perché nelle grandi città l'unica strada appunto per combattere sia il caldo sia gli eventi estremi climatici come le piogge intense, le inondazioni, è piantare alberi. Ovviamente il grande tema poi è che non possiamo rivedere il costruito, perché anche quella è una scelta che farebbe a questo punto molto male. Si può intervenire, la soluzione principale ovviamente passa attraverso un investimento di 20 miliardi di euro per la messa in sicurezza di tutto il patrimonio italiano, pubblico e privato. Ovviamente questi fondi ad oggi non ci sono, è forse uno dei nostri grandi problemi, che nel nostro piccolo purtroppo rispetto c'è sicuramente a paesi che stanno messi forse anche peggio di noi, ma noi siamo in qualche modo poveri, e questa tra virgolette povertà sarà anche un tema che quando poi ci troveremo a far fronte con montagne e montagne di risarcimenti, come già dimostra il caso dell'Emilia Romagna, avremo grandi problemi. Il libro Eco Shock, come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica. Un saluto e un ringraziamento al giornalista scrittore Giuseppe Caporale. A presto! Grazie a voi e buon lavoro. Con la giornalista ricercatrice Marta Rizzo per presentare il suo libro Non c'è che dire, libertà di espressione nella cultura italiana. Ben trovata! Ben trovati a voi e grazie! Cos'è questo lavoro? È un lavoro collettivo, io ci tengo molto a precisare che l'ho curato, l'ho costruito, l'ho creato, ho intervistato, ho chiesto di scrivere dei brani a ciascun autore che compare nel libro, ma è un libro collettivo. Ci tengo molto a precisarlo perché penso che interrogarsi in questo momento particolare della nostra storia sulla libertà d'espressione nella cultura italiana non sia riscontrato, e sono d'accordo con me quasi tutte le persone che ho intervistato, ma non ho mai avuto delle certezze nel caso specifico, men che meno, e ho posto solo domande alle quali mi hanno risposto tutti secondo il proprio punto di vista, secondo le proprie esperienze personali e le proprie conoscenze. Quindi è un libro aperto a chiunque, è uno scambio tra tutti gli autori intervenuti e i lettori. Si passa dalla giurisprudenza alla terribile situazione carceraria, all'etica, all'estetica, al web, che credo che sia il luogo più confuso e più interessante da focalizzare in questo momento, e la critica letteraria, la critica cinematografica e quindi anche la letteratura e il cinema con interviste a scrittori e a registi, e poi si passa anche al teatro, alla radio, per concludere un grande capitolo conclusivo appunto di Edoardo Albinati, che è una confessione molto personale ma credo veramente collettiva. Massimo Carlotto, che non è solo uno scrittore ma anche un drammaturgo, uno sceneggiatore, un grande giornalista, ci ha dato in questo libro una lunga e densa interpretazione di quella che è la libertà d'espressione in questo paese, che appunto non è scontata. E la stessa cosa, senza saperlo, lo fa Albinati nell'ultimo capitolo, dove confessa che non è vero che siamo così liberi, e forse senza saperlo tutti e 27 lo dicono. Com'è strutturato il libro? La struttura che ho voluto dare è piuttosto rigida, un po' scientifica, ma va bene così, perché è un argomento insolito, è un saggio insolito, e quindi mi sembrava necessario, per dare una chiara comprensione e condivisione con i lettori, partire appunto dal capitolo sulla legge, cioè cos'è la libertà d'espressione, cos'è l'articolo 21 della Costituzione italiana, ma anche a livello internazionale, con un grande costituzionalista, un bravissimo professore di Roma 3 che si chiama Marco Ruotolo e che ha fatto un ampio, ma molto anche lui denso, affresco di quella che è nella giurisprudenza la libertà d'espressione, che trovo sia indicativo e fondamentale. I capitoli che mi stanno più a cuore quasi sono quelli dedicati alle carceri, che sono i luoghi in cui la libertà è naturalmente e ovviamente negata, ma le violenze che si perpetrano nelle carceri sono spesso sconosciute, mai raccontate dalle cronache e invece violentissime. E quindi ho trovato necessario intervistare il Garante Nazionale delle Persone Private delle Libertà Personali, e cioè Mauro Palma, che si occupa di carceri ma anche di RSA e di centri di accoglienza, e anche però il presidente dell'associazione Antigone, che insegna anche sociologia del diritto a Roma 3, e cioè Patrizio Gonnella. Dopodiché passiamo alla parte più prettamente culturale, e quindi l'estetica, con Dario Cecchi, che insegna appunto estetica alla Sapienza, Villa Mirafiori, che fa un bellissimo quadro su come questa millantata libertà d'espressione nella quale noi navighiamo incide sul modo di concepire il linguaggio e l'arte, e quindi è molto denso e interessante, e da lì si passa all'etica e a come invece la libertà d'espressione nei paesi liberi occidentali come l'Italia incide nel web. E quindi Serafino Muri e Leonardo Clausi fanno una lunga indagine su questi aspetti politici, sociali e di linguaggio, sempre tra etica, web e libertà. Da lì mi sembrava fondamentale specificare con Fabrizio Funtò, che è stato per 25 anni negli Stati Uniti a lavorare per la Microsoft, è un grande esperto, poco conosciuto in Italia di web, mi sembrava interessante capire cosa accade nel mondo del web, e infatti la nostra intervista si intitola "Il prodotto venduto sul web siamo noi". Dopodiché ho pensato di intervistare dei registi, perché si passa quindi al cinema, e l'idea me l'ha data la soppressione della legge sulla censura. Nell'aprile del 2021, sotto lockdown da Covid, il ministro Franceschini comunicava la soppressione della legge sulla censura. Io, che collaboro con Articolo 21 con grande orgoglio, ho voluto intervistare dei registi per capire cosa ne pensassero di questa soppressione. La censura cinematografica in Italia è stata pesantissima. Quindi ho intervistato Giuliano Montaldo, Liliana Cavani, Tuzia Vati, Antonietta De Lillo, Daniele Vicari e Daniele Cipri, ma ho chiesto anche un parere tecnico-giuridico a un avvocato del cinema che fa parte tuttora della Commissione Cinema, che è Gianfranco Rinaldi, e che mi fa capire come dalla vera e propria censura si sia passati nel cinema a un controllo ancora piuttosto pesante da parte dello Stato. E un altro capitolo importante è quello di Marco Bertozzi, che è un documentarista piuttosto conosciuto, professore universitario in diverse università, attualmente all'Università di Venezia, e il fondatore di questo splendido festival di cinema di repertorio che si chiama Anarchive, che dirige con Alina Marazzi. E quindi c'è un'ampia indagine anche su come la libertà di espressione intervenga nel cinema documentario, e vedremo come. E ancora più sterzante è l'analisi di Fabio Fertetti sul modo di fare critica e su quanto la critica cinematografica sia libera di esprimersi mai sugli autori, ma sempre sui film. Da questa lunga indagine sul cinema si passa alla letteratura, all'editoria, e infatti ho voluto anche intervistare un grande editore ed editor che è Alberto Rollo, ma ci sono anche testimonianze di Dacia Maraini, Giancarlo De Cataldo, Lidia Ravera ed Emanuele Treti. Alberto Rollo mi dà un parere fondamentale non solo di editore ma anche di autore, ovviamente. E una grande regata mi è stato fatto da Walter City, che ha parlato del modo in cui la cultura contemporanea agisce sul modo di leggere i libri ma anche di comunicarli, e il suo capitolo si intitola "Che la letteratura si concentri nel voler capire" mi pare sia la cosa meno di moda nel nostro tempo, e quindi credo che anche i titoli dei capitoli diano una certa idea di come stiamo messi. L'altro capitolo fondamentale è quello sul teatro, e lì ho voluto intervistare due grandissimi, che sono Antonio Rezzo e Flavia Mastrella. Credo che pochi in questo paese sono liberi come questi due grandi artisti. E poi il penultimo capitolo è dedicato alla radio, e ho chiesto di collaborare con noi a Diego Puzza, che non è solo un grande autore radiofonico, ma è stato anche una persona piuttosto maltrattata dalla radio di Stato, ma ha una grandezza di sguardo, un'intelligenza e una profondità di autore e anche di scrittore e di intellettuale che gli consentono di essere un uomo ancora molto libero e molto attivo. E poi quest'ultimo capitolo di cui parlavo all'inizio con Edoardo Albinati è fondamentale, "Libertà condizionata". È il titolo del suo intervento, perché non ha voluto invece Edoardo fare un'intervista, ma come dicevo all'inizio, io devo moltissimo a Massimo Carlotto, a tanti amici che compaiono in questo libro, ma la questione non è che sono solo amici, che sono persone che rappresentano forse una parte di vera libertà di una cultura che in questo paese c'è, è grande, la cultura italiana è stata fondamentale nella storia, ma lo può essere tuttora. Se c'è questa cosa che diamo per scontata ma non lo è affatto, che è la libertà d'espressione, che è invece condizionata da moltissimi elementi che la limitano. Ma d'altra parte il libro nasce anche da una cosa che ho letto, un libro di Giorgio Caravale, si intitola Libri pericolosi, censura e culture italiane in età moderna, della La Terza, e che io consiglio. Per ultima cosa io voglio ringraziare il mio editore, un editore raffinato, coltissimo, un grande amico che è Alessandro Orlandi, la lettera editrice, che mi hanno dato questa possibilità. Tra l'altro, se tutto va bene, faremo un nuovo lavoro invece sulla libertà di stampa e sulla televisione. Infatti volevo aggiungere due elementi. Secondo il rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere, quest'anno l'Italia è al 41esimo posto per la libertà di stampa. E poi, allargando il discorso alla cultura, a mio parere ha sempre funzionato molto nel nostro paese l'autocensura preventiva. Certamente, la libertà di stampa in questo paese non è per niente garantita. Io ho deciso, ma lo dico nelle note introduttive al libro che l'editore mi ha chiesto di scrivere, lo dico chiaramente, non si poteva mettere tutto insieme. Io ho fatto una lunga intervista, che non compare nel libro, con Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il quale mi ha fatto un quadro talmente tragico della situazione della libertà di stampa e mi ha raccontato di casi sociali, politici, collettivi, di giornalisti in condizioni piuttosto drammatiche per le indagini giornalistiche che hanno svolto. Ecco, da quella intervista ho capito che in questo libro non potevo mettere anche la libertà di stampa, perché è delicata la situazione e va trattata con attenzione. Semmai appunto ci sarà questo secondo volume sulla libertà di stampa, vorrei coinvolgere il più ampio numero possibile di giornalisti che possano testimoniare gli abusi, i soprusi che vivono, ma anche i giovani giornalisti che vivono condizioni di precariato insopportabili, degradanti e molto frustranti. Ecco, io ho tentato di non parlare di tutto quello che dicono tutti gli autori che hanno voluto collaborare a questo libro e rispondere alle mie domande o scrivere i loro testi, perché tutti, senza sapere magari neanche che fossero tutti coinvolti nello stesso libro, più o meno mi hanno detto le stesse cose. Quando cito l'ultimo capitolo di Albinati, Libertà condizionata, è proprio per questo, perché Albinati ha fatto una riflessione personale, ma credo collettiva, veramente generale, su come il politicamente corretto, la cancel culture, la necessità di piacere a tutti siano determinanti nella cultura di questo paese per autocensurarsi. È una cultura di grandi pensatori. Io ho avuto la fortuna di conoscere grandi intellettuali nella mia vita, di lavorare con loro, e posso dirlo, ma quanto i tempi e i condizionamenti appunto dell'essere politicamente corretti, di questa cancel culture che è insopportabile, di questa necessità di non dire per non offendere o di tacere e di lasciar passare completamente inosservate invece delle cose che avrebbero un interesse in questo paese. Ci sono argomenti in questo paese che non passano da nessuna parte, nessuno si occupa dei fatti di Santa Maria Capua Vetere, nessuno si occupa delle altre tante carceri in cui succedono atti di violenza inauditi ai danni delle persone detenute, ma anche per esempio invece delle guardie carcerarie, la condizione delle guardie carcerarie. Questo libro se ne occupa perché ci sono delle cose da dire di cui non si può parlare. Il web, quanto crediamo di essere liberi quando scriviamo su Facebook o su TikTok o su Instagram, ma non è così. Io spero che questo libro possa essere un modo per riflettere tutti insieme. Non abbiamo risposte, come ripeto sempre, io ho fatto solo domande, non ho risposte. Ma c'è qualcosa appunto che tutti dovremmo crederci. Il libro Non c'è che dire, libertà di espressione nella cultura italiana. Un saluto e un ringraziamento alla giornalista ricercatrice Marta Rizzo. A presto! A presto, grazie a voi. Con Isabella Bignami, autrice del libro La fragilità del diritto internazionale, il caso USA-Iran. Ben trovata. Grazie Federico, grazie, piacere. Cos'è questo libro? È una raccolta di alcune ricerche che ho effettuato durante i miei anni accademici e anche se parla di una tematica precisa, ovvero il PACG, in realtà va ad affrontare diversi temi, sicuramente il testo dell'accordo, ma soprattutto anche blockchain, alcuni meccanismi di risoluzione delle controversie come lo snapback e anche tematiche più economiche durante gli anni del Covid. Sono stati chiusi conti correnti di cittadini iraniani a causa dell'uscita degli Stati Uniti dal PACG. Questo mi ha creato una certa, definiamola curiosità, interesse ovviamente in senso negativo, che mi ha portato a studiare il PACG non solo su un aspetto giuridico ma anche in un aspetto economico, proprio per dare più empiricità ad una ricerca che sarebbe rimasta molto astratta, che poi è il problema del diritto oltre che del diritto internazionale in sé per sé. L'idea del libro come nasce? Durante le ricerche ho maturato la consapevolezza che è stato affrontato in modo molto frammentato, quasi superficialmente. Pertanto ho ritenuto di dargli una certa uniformità, organicità a questa tematica proprio sotto forma di libro, anche perché fare dei video o altro avrebbe riportato al problema della frammentarietà che volevo eliminare. Com'è strutturato il volume? In due grandi capitoli abbiamo all'inizio un elenco di abbreviazioni di alcune sigle e il loro significato e poi abbiamo il primo capitolo che tratta soprattutto del piano d'azione congiunto globale, ovvero in sigla PACG, in cui si va a esaminare tutto quell'escursus storico che ha portato alla conclusione poi del piano, la ratio e i meccanismi che sono previsti al suo interno. Ovviamente abbiamo anche la commissione mista che, anche se è stata disciplinata come organo diplomatico, in realtà aveva una funzione giuridica sotto questo aspetto. Il secondo capitolo invece analizza tutte le conseguenze dopo l'uscita degli Stati Uniti, avvenuta nell'8 maggio del 2018, e quindi non solo il risultato che il PACG incarnava sicuramente sotto un punto di vista diplomatico ma proprio giuridico in sé per sé, ma anche tutte le conseguenze sotto un punto di vista comunitario, quindi l'incapacità dell'Unione Europea di prendere una posizione ferrea dinanzi all'uscita degli Stati Uniti, come Cina e Russia invece ne hanno beneficiato, anche se ne tratto marginalmente nel libro, e ovviamente la risposta dell'Iran, in cui al fine di evitare nuovamente le sanzioni primarie e secondarie americane chiede, definiamolo così, chiede aiuto tramite la blockchain, ovviamente andando a trattare sia degli aspetti positivi che negativi, perché strategicamente parlando ha sicuramente degli aspetti positivi la blockchain, ma non era completamente una soluzione idonea. E ritornando alle conseguenze e quindi a quella posizione non ferrea dell'Unione Europea, analizzo anche i due strumenti che potenzialmente potevano rendere più indipendente l'Europa dagli Stati Uniti, ovvero il regolamento di blocco e gli steps. Quali sono gli elementi di fragilità del diritto internazionale? Questa è una bellissima domanda. Allora, nel libro c'è come quadro sottostante un importante trattato che è il TNP. Qual è il problema del diritto internazionale? È un diritto giovane rispetto ai diritti nazionali che hanno secoli di storia, mentre il diritto internazionale è molto recente. La sua giovinezza, passatemi il termine, e essendo un diritto che deve non andare oltre gli stati, quindi non non c'è la possibilità di ottemperare una sentenza con la forza, perché non è possibile, rende il diritto internazionale provvisto di una forza esecutiva che nazionalmente parlando il diritto ha. Ma internazionalmente questo non è possibile, se non in casi eccezionali, e il caso eccezionale sono tutte quelle organizzazioni come l'ONU, per dare un'idea chiara, può dare un peso alla propria sentenza o alle proprie decisioni. Come ti dicevo, il tempo è alla base di tutto il libro, e quello che ho anche voluto tramite il libro, e spero che il libro dia questa immagine, è che il PACG non è un accordo, un trattato a livello del tempo, quindi vincolante, ma era un trattato di transito, cioè doveva portare l'Iran a quello standard delineato dal tempo. E poi per l'uscita dell'America, e quindi nell'incapacità di tutti gli stati partecipanti del PACG di non aver compreso l'importanza di questo piano, e quindi di aver reso ancora di più il diritto internazionale, poi in un settore fondamentale nucleare, fragile e soprattutto sprovvisto ora di una potenza che potesse in qualche modo dargli una conformità, che era l'America, e che ora non c'è più questa posizione. A fronte di questo, il rischio che spesso vediamo in atto è quello del diritto del più forte. Esatto, è brutto dirlo, però prima dell'uscita dell'America gli Stati Uniti erano vista come potenza mondiale, con la Cina che lo stava raggiungendo, eccetera eccetera. In realtà il problema dell'uscita unilaterale dell'America è stato quello di renderli non affidabili dinanzi agli occhi della comunità internazionale. Mi spiego meglio e ti faccio anche una domanda, Federico: se io e te concludiamo un trattato, e quello del PACG ci sono voluti più di 20 anni per concluderlo, e poi un giorno ti dico no, io esco, senza darti un motivo, non ti dico lecito, ma legato, conforme al trattato che abbiamo concluso, tu saresti poi disposto a concludere un altro accordo con me? Ovviamente no. Quindi qual è la volontà di uno Stato qualsiasi, poi di rimettersi a tavolo con una parte che poi esce quando vuole, come vuole? È inutile. Pertanto la posizione di forza dell'America dopo questa decisione è crollata, letteralmente. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? In futuro, anche vedendo un po' come proseguono le trattative diplomatiche tra l'Iran e gli Stati Uniti, che come sappiamo c'è l'intento di ritornare nel PACG ma sono molto lontane, aprirò una pagina Facebook a mio nome, quindi Isabella Bignam, in cui riporterò tutti gli eventi sia passati da quando il libro è uscito fino al momento che riterrò, spero, più positivo possibile, senza dare ulteriori notizie negative. Il libro La fragilità del diritto internazionale, il caso USA e Iran. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Isabella Bignami. A presto! Grazie mille. È il momento dell'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio, andiamo a teatro, magari che sia all'aperto, però perché ultimamente insomma il clima si sta facendo sentire. Vediamo un po' cosa offre questa settimana, non proprio all'aperto, in realtà io suppongo sarà la settimana del Teatro Tor Bella Monaca, con un paio, due o tre insomma appuntamenti piuttosto interessanti, e come di consueto apriamo insomma da questo teatro che ci è caro. E si parte il 28 di giugno con un monologo di Paola Minaccioni, ovvero sia una bellissima serata. I personaggi di Paola Minaccioni, insomma, che siano TV, il cinema, la radio, ormai insomma un personaggio piuttosto noto, comunque sono spaccato dei nostri tempi, insomma i caratteri dei vari personaggi che si incontrano quotidianamente, diciamo, nella nostra vita. E quindi le sue imitazioni della realtà sono diventate insomma un po' la cifra del suo teatro, della sua qualità. Quindi mercoledì 28 giugno una bellissima serata con Paola Minaccioni. Seguirà invece giovedì 29 e 30 giugno lo spettacolo di carrozzeria Orfeo robe dell'altro mondo, racconto di un'invasione aliena. È tutto molto semplice in realtà, uno spettacolo che ha una decina di anni, uno spettacolo visionario, surreale, che parte da un pensiero. In un mondo così incrinato dalla crisi economica, sociale, umana, insomma, chissà che l'unica speranza di salvezza non sia appunto l'arrivo degli alieni scesi sulla Terra per venire a darci qualche consiglio e almeno un aiuto. È uno spettacolo con in scena, musica originale di Massimiliano Setti, che appunto è autore insieme curatore della regia insieme a Gabriele De Luca, che è appunto autore del testo, e in scena ci saranno anche le illustrazioni, la grafica, le animazioni di Federico Bassi e Giacomo Trivellini. Questa appunto è una versione un po' interattiva di questo spettacolo. Mentre invece nel weekend, sabato 1 luglio e domenica 2, seguiremo Non ci facciamo riconoscere. Marco Palaguasta presenta questo testo scritto con Alessandro Mancini, che un po', diciamo, attraverso questa espressione, che è un po' un'espressione familiare che tutti quanti abbiamo ascoltato, almeno chi è nato a Roma, un po' questa frase l'ha ascoltata: non ci facciamo riconoscere, per stare ad indicare, insomma, non facciamo parlare di noi come al solito per qualcosa di male, insomma, ma questa frase, insomma, è l'occasione anche per fare un viaggio tra le generazioni, tra le varie epoche, per vedere un po' come è cambiato il mondo, come sono cambiate le città, la nostra società dagli anni 70 fino a oggi. Questo appunto 1-2 luglio al Teatro Tor Vella Monaca. Segnalo questa settimana anche che nel weekend arriva a Roma, sabato 1 luglio e domenica 2, a Caracalla, l'estiva del Teatro dell'Opera, la Cenerentola firmata da Rudolf Nureyev. Ed è una Cenerentola un po' particolare, ambientata nella Hollywood degli anni 30, questa versione del balletto Cenerentola, che va in scena con il corpo di ballo del Teatro dell'Opera, appunto, cerca di raccontare questa ragazza maltrattata in fuga da un padre alcolizzato, il rapporto con un produttore cinematografico che trasforma una zucca in una Rolls Royce, insomma, il debutto al cinema per questa ragazza. Ecco, una serie di riferimenti appunto alla Hollywood degli anni 30 per rintracciare la storia della fiaba di Pierrot, che era appunto modificata già da Nureyev per rappresentare il dramma, diciamo, nell'epoca un po' più contemporanea. Questo è quello che andremo a vedere. Rebecca Bianchi sarà appunto Cenerentola, il principe sarà Michele Satriano, questi personaggi principali. E quindi 1-4 luglio per la Cenerentola di Nureyev al Caracalla Festival 2023. Seguirà dunque qualche altra occasione. Beh, insomma, intanto sicuramente andremo anche sotto il sipario di stelle a Villa Torlonia con sia Teatro dell'Opera e il Municipio 2. Da oggi ci sarà, insomma, ci sarà una serie di appuntamenti. Vado a segnalare quello odierno, sarà questa sera Alfonso Sessa che presenterà uno spettacolo appunto al Parco di Villa Torlonia. Giovanni e Paolo, ragazzi come noi, un omaggio al coraggio e alla verità di Falcone e Borsellino, insomma, al loro sogno di sconfiggere tutte le mafie. Questa sera alle 21 a ingresso gratuito a Villa Torlonia. Ecco, e continua anche Circo Infest, che è tra appunto il Teatro India e ancora Villa Torlonia, il festival di circo contemporaneo che è curato dal Circo Il Grito per il Teatro di Roma. Questa settimana andremo a vedere L'Uomo Calenita, questa sera ancora, scritto e diretto da Giacomo Costantini, dove insomma le acrobazie, le magie avranno anche la voce dal vivo di Wing 2 e a guidare lo spettacolo, insomma, tra storia e fantasia. Invece dal 29 giugno fino al 2 luglio, fino a tutto il weekend, insomma, andremo a vedere Liminal, l'ultima produzione della compagnia appunto Circo Il Grito, e un letto volante diventa un trapezio da danza aerea per la protagonista, che vive sul confine con il teatro dell'assurdo, fino a quando viene a farle visita un uomo mutevole, le cui metamorfosi inaspettate aprono verso il grottesco. Liminal dal 29 giugno al 2 luglio al Teatro India, così come L'Uomo Calamita, poi ci si sposterà a Villa Torlonia successivamente per il 1 e 2 luglio, quando al Parco di Torlonia vedremo Quattro Gatti, Piccole Storie Smarrite, e la compagnia Quattro Gatti, appunto il nome di compagnia, e andremo alla scoperta di un luogo segreto dove ci raccontano storie fantastiche. Insomma, sarà un gioco interattivo con il pubblico, con un meccanismo che si avvale di aeroplani di carta, ed è chiamato a scegliere di volta in volta la scena da rappresentare. Questo per questa settimana al Circo Infest del Teatro di Roma, tra il Teatro Idia e il Teatro Torlonia. Inizia Attraversamenti Multipli 2023 dal 29 giugno al Parco di Torre del Fiscale. Come al solito la compagnia Margine Operativo lavora per cercare di dotare, cioè, dei luoghi particolari, dei luoghi importanti, soprattutto i luoghi dove la natura ha un suo peso specifico, appunto dotare questi luoghi di spettacoli, performance, in alcuni casi anche site specifiche. Si tratta di 32 appuntamenti in questa edizione. Appunto cominceremo il 29 giugno e andremo avanti fino all'8 di luglio. Vediamo cosa offre poi questa settimana. Intanto andremo a vedere una variazione di La Casa d'Argilla attorno al progetto teatrale dedicato al romanzo di Ziva Leng, Città Sola, che per Attraversamenti Multipli si compone di un talk performativo, Corpi Soli e Città, il 29 giugno, e da un audio percorso sonoro dedicato appunto a Città Sola, variazione numero 2, Tonnellate di fiori nel mio giardino. Questo per il 29, 30 giugno e 1 di luglio. E, Performative Speech, invece, lo studio sul Fauno sarà la compagnia Zappalà Danza di Roberto Zappalà, con la performance per spazi non teatrali e la coreografia appunto danzata da Filippo Domini, il 1 di luglio. Poi il 29 giugno vedremo anche il coreografo Carlo Massari di CNC Company, che propone in prima nazionale Bastardi, una performance politically incorrect. Ci dice: quello che non vorremmo mai vedere, sentire, ma c'è. Ed è un lavoro sul rapporto tra uomini e animali, che intreccia la danza e il teatro fisico all'interno appunto di paesaggi naturali di Parco di Torre Fiscale, il 29 giugno. Poi ancora 29, 30 giugno e 1 luglio andremo a vedere il collettivo Fixer e la visual designer Leeds, che presentano Natural Landscapes, una serie di performance visuali multidimensionali e style specifiche che trasformano gli acquedotti del Parco di Torre Fiscale in degli schermi dinamici e creano un universo di biodiversità immaginistica. Insomma, questo è quanto. Ma ci sono anche tanti altri appuntamenti. Il 30 giugno alle ore 21 un focus dedicato a Franco Scaldati con Valentina Valentini e Viviana Raciti, che hanno curato un progetto editoriale importantissimo, Franco Scaldati, il teatro di Franco Scaldati, con Marsilio Editore. Insomma, vedremo un po' di appuntamenti. Ci sarà un reading performativo notturno Scaldati con i testi del grande drammaturgo siciliano scomparso, quindi questo per Attraversamenti Multipli. Andiamo anche però a vedere cosa ci propone questa settimana la rassegna di danza, festival di danza contemporanea internazionale Fuori Programma. Unisono a più voci a quest'anno il claim, il nome che viene dato alla manifestazione. Abbiamo già parlato la scorsa settimana, e questa settimana andremo al Teatro di Vittorio Quarticciolo per la restituzione della residenza del festival. Si tratta di Stuporosa, la performance di Francesco Marilungo, artista di Corper, che si ispira al pensiero di Ernesto De Martino e ricerca sul pianto rituale, sulla figura della lamentatrice, sull'importanza del rito funebre perché abbia un senso la morte. Questo il 30 giugno al Teatro di Vittorio Quarticciolo, mentre invece il 2 di luglio il festival andrà negli spazi del Mausoleo di Adriano, appunto Castel Sant'Angelo, dove dal pomeriggio alla sera ci saranno creazioni dell'artista multidisciplinare australiano Thomas Alfred Brasley e di MK, il gruppo guidato da Michele Di Stefano. Characters di Brasley, una serie di quattro performance specifiche che utilizzerà la pratica giapponese del Buto, si concentra sulla relazione tra corpo del performer, costume, spazio e immaginario. A seguire ci sarà appunto il lavoro Veduta Roma di MK, un teorema sul paesaggio con una forte impronta cinematografica per ridisegnare la prospettiva dello scenario urbano. Questo per questa settimana per ciò che riguarda appunto fuori programma. Io segnalo anche, eccoci qua, sta per arrivare, sì, e l'appuntamento un po' della settimana, all'inizio a Roma della decima edizione di Dominio Pubblico Youth Fest. Ricordiamo che Dominio Pubblico è il festival interamente pensato e curato da giovanissimi, che compie 10 anni, il festival Under 25, che da questa sera fino al 2 luglio sarà al Teatro India, con un sacco di appuntamenti. Io ricordo giusto qualcosa, sicuramente questa sera alle 18.30 ci sarà insomma l'apertura al Teatro India con una grande festa, e cioè, invito tutti ad andare, ma poi vedremo anche un po' questi giorni, un po' di appuntamenti, quindi invito intanto a seguire il sito per vedere tutti quanti gli appuntamenti. Io segnalo sicuramente Lorenzo Maragoni, che è il campione del mondo di Poetry Slam, che sarà appunto al Dominio Pubblico proprio in questa settimana. Ci sarà anche Giulia Anania, poetessa e cantautrice, insomma moltissimi appuntamenti, difficilissimo segnalarli tutti, ma io invito appunto ad andare sul sito dominiopubblicoteatro.it per uno sguardo più ampio. E ultimo, come spesso ormai succede, insomma, ricordiamo l'appuntamento settimanale di Sotto la Magnolia alla libreria Raponi, cognome che ci dice qualcosa, di Dario Albero Blu, che presenta via Zambarelli a Monteverde il 30 giugno alle 18.30, ben due volumi dedicati entrambi a Roma, la Roma da attraversare. Il primo di José Carcione, edito dalle edizioni Il Lupo, si chiama Roma in bici, un museo all'aperto, quindi un'opera che va a cercare le mappe, i siti culturali sui percorsi degli anelli sul ciclabile e all'interno dei parchi romani. Mentre invece l'altro volume che verrà presentato, sempre un libro di edizioni Il Lupo, si tratta di Roma, guida insolita per esploratori urbani, l'ha scritto Carlo Coronati, e riporta 15 trekking urbani a piedi in bici per vagabondare tra i parchi, le periferie, la street art, i borghetti della capitale. Come abbiamo sempre detto, Roma non è una sola città, ma tante, tante città tutte insieme, e chissà, andiamo a scoprirlo con questi volumi. E con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La paura di Federico De Roberto, lettura di Francesco Bonomo.